piatta che è a cerniera, quando la basso arriva direttamente sulla base ed è bellissimo. E lì c'è anche la spia, oltre al modulometro c'è anche la spia, c'è tutto, c'è l'eco, c'è tutto. Vanno a meraviglia, infatti bisogna che io le metta a mano per ripristinarlo, perché probabilmente ho staccato il filo della batteria e allora è per quello che non funzionava, non lo so come l'avevo messo, dunque non so dirti di più, però ce l'ho, è nuovo, è nuovo fiammante, veramente. L'avevo fatto 30 euro, di seconda mano, me l'avevo fatto arrivare Luca, me l'avevo fatto arrivare, mi aveva fatto questa cortesia Luca, però devo dire che sono stato molto soddisfatto. Avanti Massimiliano. Sì, no, volevo vedere se aveva ripreso Chiodo Ruggito. Chiodo. Ciao Massimiliano. Ciao Antonio. Come ti sembra questo microfono? Aspettateli. Va bene, ok Chiodo, va benissimo, dai. Va bene, siamo qua comunque, non c'è problema. Cos'è Natalì, vai? Ho detto, come ti sembra questo microfono? Buono, dai. Buono. C'è un microfono, cos'è? Un MB4, cos'è? Un Tarnet più 3 non è un MB4. Quello grigio, Ma si assomiglia a un MB4, non c'ha proprio la modulazione della Tarnet, no? Mancano gli acuti, Natali, te l'ho detto, mancano gli acuti, c'è qualcosa che non è originale in quel microfono, non so, c'hai molta tonalità bassa, infatti come dice Massimiliano, che te volevo dire ieri, sembra che stai usando un più 4 senza tonimi, capito? Questo è Tarnet più 3, vedi come spinge gli acuti, quello che non sento gli acuti, non so se gli altri sono d'accordo, hai molta tonalità medio-bassa, vero Giulio? Sì, ma glielo ho confermato anch'io ieri me l'ha fatto sentire e gliel'avevo detto senza nessuna... Sì, esce bene, è andata lì chiaro, bello, però come ti ha detto Claudio, è come ti avevo detto io ieri sera, che non ha toni alti, non spinge più di tanto, ecco, tutto lì. Ma c'è qualcun altro forse che voleva entrare, forse era Luca. Luca, avanti. Registrato il blecco, avanti chi è? Sì, ti ascolto io, ti ascolto molto bene. Santiago Nova, Radio Bomba, va benissimo. Vai Massimiliano. Positivo, io ti ascolto invece. Santiago 1, Radio 2. Mi sembra Franco, mi sembra. Franco, rispondi? Santiago 2, Radio 2. Santiago 9 Radio 5 lo stesso, 9 è abbondante, per Radio 5 è perfetta, alla grande. Già va bene, non ti preoccupare, stai sereno e tranquillo. Avanti Gianni. Ma quello lo stavi ingannendo, fa bene. Sto scherzando. Ma se gli ho proposto lo scambio io, non me l'ha dato manco a me, a pensare che mi da giura due io. Se 80 e 140 è difficile che le fai roba, No, c'è Cristo. Sono dei muletti, a differenza dei 4.40 e 4.30, ma anche 4.30 non dà grossi problemi. Io lo sto mandando su a fare un bel allineamento, un controllo generale, perché necessita, però non mi ha mai creato problemi. Si era solo bruciato il display e me l'avevano cambiato qua a Sassari e basta. Però per il resto va benissimo, sono radio che vanno bene, non creano problemi. Avanti Massimiliano. Allora riprendo io, Massimiliano mi sembra che sia sentato per un attimo. Sì, beh, certo qua, vabbè, un giorno mi darai la dritta come fare, così porto io a una piccola revisione in quel posto che stavate dicendo stasera quando stavi parlando con Franco, eccetera. Va bene, lo vai intanto, in quale città è? È a Monte Granaro, provincia di Fermo, ma è, guarda, una persona così onesta che tu non hai idea, ti dico solo una cosa, non ti dico il prezzo, ma io ho mandato il 140 a farmi tutto l'allineamento completo, mi ha cambiato il microprocessore, mi ha fatto di tutto, proprio l'ha tenuto una settimana proprio perché volevo vedere se era tutto a posto eccetera, mi ha rimandato splendente come la radio anche esternamente. E ti dico solo questo, che mancano 10 euro, ho speso più di trasporto andare e tornare che la riparazione. Aspetta, interessante qua. Va bene, allora quando è il momento mi dai la dritta e così facciamo la spedizione, eccetera eccetera, ok? Cosa volevo dirti? Sì, vabbè, ancora già mi sta andando bene, la verità, non è che non mi sta andando bene, però ha sempre quel problema che non mi dà tutta la potenza che io voglio, anche se non mi interessa più di tanto, ma è interessante che mi sentano, poi non mi interessa più di più. Però visto e considerato che è una cosa fattibile, che si può riparare tranquillamente, visto e considerato che c'è questo amico che tu conosci, eccetera, diciamo che prima o poi gliela mando e così mi dà una controllatina generale anche alla mia radio. Ok, qua. Guarda, quando vuoi, me ne occupo io, non ti preoccupare, ti faccio tutto io, guarda. Tanto io scendo lì punti a spedire, perciò da Francesco, perché siamo amici, me l'ha prestato Massimiliano, ma di vista lo conoscevo perché porto Torrese, e io vado lì, anche lì mi trovo molto molto bene, eccetera. Ti dico, ti rettifico, che ho speso più tra viaggio, adesso facendo bene i conti, che riparazione, quindi immaginati tu. È onestissimo, una persona bravissima, me l'ha presentato Luca, me l'ha detto Luca Flipper. L'ho contattato e adesso lo sento tutti i santi giorni, anche così, per salutarlo, per vedere come sta, eccetera, anche perché gli ho mandato un pacco, la prima radio che ho scritto, gli ho mandato assieme alla radio un po' di roba nostra, no? Acqua vite, il mirto, salsiccia, formaggio, ed è stato due lì a durare di gabbo, e quindi ogni tanto me lo ricorda, capito, che l'acqua vite che abbiamo noi è troppo forte. Adesso mi fa un po', le faccio un altro pacco, quindi a me mi tratta in una maniera eccezionale, come anche a Luca, a Flipper lo stesso perché è un suo amico. Avanti, facciamo girare per Massimiliano, se riprende, se no riprendi tu già. Sì, ho ripreso, vai. Ok, c'è anche un altro greco, vai da più lui, fallo entrare. Gianni è già al telefono, sono le 7:10, avanti break, buonasera. Ciao Bruno, ben entrato, sono in compagnia di Claudio, non so se hai fatto ascolto, Massimiliano, Gianni che sta facendo la moda al telefono, Natalino anche c'è con noi, che io adesso lo rilancio, così anche lui che ogni tanto ci dice, che Natalino ha. Lascialo qua. La battutina ci fa piacere. Avanti Natalino. C'è la portante, comunque se passo. Non spingere perché la parete è chiusa, io non l'ho toccato, era malogatto, mi dice che era malogatto, è tutto chiuso. Cioè, di nuovo quell'eco deficiente arrivato qua. Ma questo non si sente male tutte le sere? Ascolta, hai finito con questo summer camp, col ciccalino del summer camp, hai finito? O devo venire a casa tua? Hai finito con questo ciccalino del summer camp? Andiamo bene, andiamo, che a posto siamo, siamo a posto. Io 27095, vai. Ah, io 27095, intanto lui sta usando un summer camp 23 canali, tipo il Tokai 5024, e usa quel pulsantino del CW. No, non passa nessuno qua. Giulio. Non passa nessuno qua. Ah, Bruno, in che zona sei tu? Ma fatto, adesso deve aver passato lei, però vi conto qui va un bel forte. Sali su, più in alto di via Grazia d'Aleda, dimmi, togli il PL, dimmi se ti arriva il segnale. Io sono molto alto. Sali Bruno, sali, nella piazzola lì, prima di Filigheddu, togli il PL lì, guarda se ti arriva il segnale. Io sono di alto di vista. Guarda se ti arriva il segnale senza PL, mettila adesso la portante se sei uomo. Ti invece non sei uomo perché sei un ragazzino di merda. Vedi che non la metti più adesso la portante. Rimani lì, Bruno, rimani lì. Rimani lì, vediamo se rimette la portante. Vedi che non la metti più, che sei anche stupido. E l'altra volta che te l'ho detto ti ho sgamato, anzi ti hanno. Riprendi Massimiliano. Eravamo 95 e giù di macchinoni. Ah, getta che c'è Bruno proprio nella piazzola. Nella piazzola che serve a me in macchina. Che non mi muove più importante, Eddo. Chi sono che scendi io, sono che nella casa gioia. Va bene, allora. Bruno, in quella piazzola vai ancora più su. E io sono alto. Guarda quando mettono la portante, Bruno, stacca il piede e se ti arriva il segnale. Stai in agguato, Bruno, che mi interessa, così ne ravvisiamo subito il tuo, perché ci ha già stufato. Da quest'ora si sente male quello qua, non è possibile. Vabbè, ma noi già lo facciamo sentire bene fra un po', non ti preoccupare. Abbiamo bisogno solo di qualche conferma e poi è arrivato a capolinea. Infatti, adesso magari perché hai dato una dritta a Bruno, forse adesso non la mette più la portante. Lui la metta, già c'è Bruno lì a 100 metri da lui. Metta la portante e poi, basta che Bruno a me mi confermi che senza PL arriva il segnale, io domani mattina sto andando alla postale. Incredibile, ragazzi. Possibile che tutte le sere a questo le viene il mal di testa e fa queste cretinate qua. Comunque, lo devo intelligere qua. Avanti Gianni, sei rientrato? No, mi sento un secondino, mi devo attaccare un secondo, ci sentiamo dopo. Ok, Massimiliano, d'accordo, dai, a dopo eventualmente. Ok, va. Bruno, ci sei? Bruno? La gente che scende in manovra, Bruno, che è lì in zona, basta insomma, una volta, due volte, tre volte, o si gioca, o lo fai per, ma basta, c'è ogni sera, non è che tu puoi interrompere il question a chi ti viene lo ravino a Ruta e Bendo, adesso prendiamo sempre i provvedimenti. Ma era senza antenna, non potevo rispondere. No, ma tu quando c'è la portante stai attento, guarda il segnale, nel frattempo stacchi, perché se ti entra senza segnale lui è un uomo morto, tranquillo che è un uomo morto. Riprendi Bruno, riprendi. Sì, ok. Sì, Bruno, infatti tu quando senti la portante senza dire niente, nemmeno una sillaba, fai quello che devi fare, vai e controlli, e così poi ci riferisci, quindi ridagliamo le mani, ne ridagliamo questo imbecillotto. Non continuare, guarda che c'hai uno a fianco a casa tua, poi fai figure brutte. Ancora non hai capito, te l'hanno già detto l'altra volta che abbiamo capito dove sei e stai continuando. Stai attento che a 100 metri da casa tua c'è uno che ti sta controllando. Tu continua e poi è finito di campare. Siccome c'è anche il cervello ce l'hai ancora piccolino, dovrebbe svilupparsi. Te lo ripeto di nuovo, non mettere la portante perché c'hai il controllo sotto casa. Incredibile, non è possibile. Non è possibile che possa essere così deficiente una persona. Vabbè, dai, comunque, mai sveglia. No, per me è mai Giannotti a Bulu, però basta, cioè, ogni sera la stessa storia, e facci parlare, no? Ma cosa vuoi? Ma che a te se scende, gatti gaga in italiano. Avanti, Bruno. Lasciamolo fare a Bruno, se mette la portante è meglio, lasciamolo fare, anzi non lo chiamiamo. Bruno, guarda, se stai ascoltando, noi non ti chiamiamo, però se vedi la portante fai quello che devi fare, così poi entri e ci riferisci. È una cosa incredibile. Avanti Natali. Ma non è per caso che qualcuno che non sta facendo magari. No, Bruno, è ogni sera così, ogni santa sera a quest'ora li viene i romattini che vai a Rosebedo, capito? Adesso basta. Se l'idea ce l'abbiamo un po' in generale, però visto che tu sei in macchina e sei lì, stai attento, perché se c'è la portante tu riattacchi il PL e me lo dici, poi già mi arrangio io, non ti preoccupare. Non ti preoccupare che c'è Bruno Ragano che è a 100 metri dalla sua zona, perché non la mette adesso la portante. Che così, se Bruno mi conferma che c'è, le entra il segnale senza antenna, domani mattina sono alla polizia postale, adesso mi ha rotto le palle. Incredibile, adesso non la mette più, non la mette più la portante, hai visto? L'abbiamo sgamato. Pronto? potente la portante, è efficiente, così almeno ti rintracciamo al 100%. Non la mette, no, non la mette, che già le funziona la testa, non pensare che sia così imbecille, non la mette perché sa che c'è la macchina lì di Bruno nella piazzola che sta aspettando a lui a mettere la portante. Se Bruno mi conferma che entra il segnale senza portante, ti distruggo come Goldri. È una cosa incredibile, ragazzi, non è possibile. Vabbè, tanto una fuga di gambo, basta, abbiamo detto tutto. Va bene, avanti Natalici, sì? Ma non lo senti a chiodo liscio? Perché vi state sovramodonando, Giulio, non lo senti? No, per niente, proprio nulla, zero assoluto. Porca paletta, io. Ma come mai si è rotto questo amplificatore, Clau? Ascolta, non le puoi attaccare il vattimatro esterno, non succede, non si può fare. Ehi, Balsa, ti lascia perdere lo strumento del lineare. Guardati lo strumento esterno, accorda sullo strumento esterno, che forse va anche meglio l'accordata, capito? E se no Giulio non ti sente, porca miseria. Quindi Gianni al telefono, non lo so se vuole entrare qualche d'un altro. Avanti chi vuole entrare nel canale 10. Bruno, ci sei sempre, sì? Sì, mi attaccato. Come sta mettendo la portata perché adesso che c'è Bruno? Guarda quanto è furbo, hai visto Giulio? Lui sta in ascolto, no? Dice adesso lui attacca il PL, non mi può controllare. A vedere quanto è furbo, te immagini. Come tu attacchi il PL, lui mette la portata, Bruno. No, perché un'altra persona io ho lasciato il portato, adesso io mi sono portato un altro. Sono San Francesco, sono lì, quello di fermo a Cugliè, devo portarmi, per cui succede per il segnale non è finito neanche lui. Ah, hai capito che ti stai giocando tutto. Ah, quindi siete in due, uno giù e uno su. Dai, che ce la facciamo stasera a farle ballare la samba. Sì, vai. Io non ho 20 abbondante. Giulio, lo senti adesso a chiodo? Sì, adesso l'ho sentito, in questo passaggio, basso, ma l'ho sentito. Sai cos'è? Il problema è che ho anche un'alternata qua in ascolto, cioè un ronzio lungo, qua su un paio di canali o qua. Evidentemente c'è qualche macchina della elettromedicale, come si chiama, che crea di tanto in tanto questi problemi. E mi arriva quel segnale Santiago 8 e Claudio mi arriva Santiago 7 e mezzo, ed è per quello magari che lo copre, però ripeto è bassissimo, è molto ma molto basso. Avanti Claudio, se mi hai ascoltato. Muros. Sì, ho capito Claudio, sì, hai fatto bene a mettere il rosmetro, il wattimetro, così almeno ti regoli con quello e le dai il massimo, così almeno ti ascolto bene. C'è stato un fischio, avanti chi era? Vai Claudio, Sassari. Avanti chi vuole entrare? No, questa non è la portante, chi è? No, era un fischio di una bella portante, chiara, bella, di lusso. Avanti, chi è che vuole entrare? E sarà lui che ha cambiato radio, per far vedere che ne ha tante. Carraggio. Tanti Carraggio, ma... vabbè, sai che volevo fare? Vedrai che prima o poi mette il piede sul fuoco, vedrai, fra un po' lui è sistemato. Perché adesso adottiamo un altro sistema, adottiamo. Per cui prima o poi lui cade in buca. E vabbè, dai. Avanti qui, Muros. Sto scendo. Ehi, Gianni, vai. Cosa ti stavo dicendo? Che poco fa non mi stava segnando il Galaxy, non mi stava segnando il rosmetro, ma il rosmetro va, perché non mi stava segnando. Adesso ho riattaccato il PL e sta andando. No, sta andando bene, come sempre già. Cavagava, va bene. Quanto va la gatta all'ardo che ci lascia lo zampino di Diaghisci? Ma l'importante che hai dato poco fa quel colpetto di subito. Quale? Poco fa abbiamo sentito un fischio, una portante, e aveva segnale vicino. Voi state trovando il... No, non stavo uscendo io, forse è quello lì, stavo provando perché non stavo uscendo, probabilmente è quello. Gianni, comunque anche tu la sera, così. così in sordino, no? Quando senti la portante, fai lo sforzo, ti metti la radio nella macchina e ti fai il giretto anche tu, così non rintracciamo questo pellegrino. Ma infatti dirlo in radio non fa, bisogna dirlo al telefono quando si sente e si sgama così. No, quando tu senti che c'è la portante senza dire niente, molli tutto e vai l'operazione che devi fare, non c'è bisogno che te lo insegni nessuno. E vai direttamente su di Rami, dove è Bruno adesso già. Comunque, fa una formazione, lo sto usando due antenne, perché prima quando c'era il segnale molto forte, è stato molto forte. Di colpo, dopo un attimo era calato un Santiago 8, 9, per cui sicuramente ha cambiato l'antenna, il segnale si è molto abbassato, perché io conosco quel tizio. Eia, ma anch'io lo conosco, ne ha tre di antenne, non ti preoccupare, ne ha tre di antenne. Ma anche il dipolo non so, capito? Ha dipolo, la verticale e la direttiva, ma vedrai, già lo sistemiamo, non ti preoccupare. E beh Gianni, deve fare da bravo, deve fare da bravo. Ciao Califo, dai, ci sentiamo. Siamo un po' in balia delle onde stasera, come tutte le sere, non riusciamo mai a concludere un QSO, però stasera forse ci siamo, forse ci siamo. Guarda Giulio, io non ho base magnetica, antenna della 27 per la macchina, però il baracchino ce l'ho. Se mi procurate un'antenna a base magnetica, io me ne vado. Come stai dicendo tu, in sordina, ciao Giovanni, non ti preoccupare. Procuratemi un'antenna a base magnetica per la macchina e io tengo il baracchino già pronto. Devo solo mettere la calamita e attaccare il PL e partire. Poi già lo sistemo io a lui, già lo so io dove mettermi. Buonasera a tutti, ma sempre arrabbiati siete. Vedi tutto lì, cazzo di Asira, perché il imbecille vuole andare a portante, cosa dobbiamo fare? Chiudiamo le radio e ce ne andiamo? Non penso proprio. No, perché bisogna chiudere? Ma perché ieri l'ho messa. Infatti, l'ho per chiudere, spegni anche il baracchino io, me lo posso fare usare un guardo. Ma se non siete nessuno con chi parli, col tuo vicino di casa, e gli altri cosa fanno? I miei vicini di casa, non sono nessuno, più che il cane non posso parlare io. Comunque saluto il circolare che c'è ruota, che non so chi c'è, l'ho appena acceso. Ti ho sentito a te, ho detto, ma arrabbiato è Claudio, è giustissimo. No, guarda, anzi, proprio in questo periodo sto lasciando perdere, non me ne frega niente, io sono pronto anche a chiudere, andarmene, però è fastidioso anche nei confronti degli altri che ogni sera ci sia questo cretino, perché è un cretino, capito? È un cretino viziato e non posso aggiungere altro perché altrimenti capisce. Ma sono pronto a fare nome e cognome, assumermi le mie responsabilità, ma me ne sto per tranquillo e sereno. E ogni sera no, basta, la devi finire, perché stai per cadere nella rete, e se cadi nella rete tu sei morto. Perché Claudio Sparviero a te ti sistema una volta per sempre, come hanno sistemato a me nel 1972 a Porto Torres. Tranquillo, che io ti sistemo proprio alla bella meglio. Avanti Muros. Ciao Claudio, ho sentito sotto nel Corea. Noi l'hanno messa anche a me ieri, una bella portante forte. Ma ripeto, non me ne affrutti nulla, se ascolta bene, se spengo, capito, mi guardo la televisione, buonanotte. Niente, non me ne affrutti nulla, ripeto, sono a cardiopatico, non mi devo incazzare di niente, usare il cammino di calma e tranquillo. Quando la mettono sul mio parlare, ciccia, io voglio parlare con Claudio, lo telefono e sento Claudio, voglio parlare con te, ti telefono, faccio prima, voglio sentire Gianni lo senti lo stesso. Avrà forza, dammi lo sagomaro, ma un guaccio, ma ce la facciamo. Avanti, doppio. Ehi, ciao Tony, l'hai sentito, va? E sto usando un ZG adesso col Galaxy, come sta andando? Sì, è sempre l'ultimo segnale, la radio non è molto, tutto questa bella radio amplificata, ma è buona, perfetta, 5. Cava, cava, va bene, dai, adesso ne provo un altro. Tony. Sì, avanti. Ciao Bruno. Sarebbe il tenore lo sa giusto lì alla pugnala portante. Ciao, io ho una persona che si chiamava Altaleno, non so se lo sa, che mi trovo in via San Francesco, ha rotto le palline, e col capo suo che usciva sulla via, che lui abitava quasi il primo piano, c'è piano terreno, qualche piano rialzato, ho fatto l'altalena col capo suo, c'è farà tutto. A qualcuno deve abbiamo fatto il campanello di casa mentre stavo facendo la portante. Deve maturare. Lo stecchino mi avevano messo a me, lo stecchino a casa di mamma, lo stecchino nel campanello che... Me l'ha preso lo stecchino che... Allora, mamma insultata, ridate, magallate. E poi non ero neanche io che stavo mettendo la portata perché eravamo... Abitavo, io non so se vi ricordate, a Gavino Migliere, Gavino Carciofo, abitava attaccato proprio a me, lì si era inciulato lo microfono, allora aveva uno di quei geloso, vabbè, un bel microfono, lì si era inchiodato e praticamente pensavano che fossi io stavo mettendo la portata. Sono giunti sotto un gas in 3 o 4, mi ricordo c'era Francesco Tiemma incazzato nero, e avevano messo lo stecchino nel campanello di casa di mamma, capito? Ma quelle sono le prime cose, poi si usciva tutti assieme, si vazia la ronda, bazzicare i portanti, ma eravamo tantissimi a portoci. Ma io non avevo avuto la ronda, assolutamente, io posso essere sicuro che è lui, sicuro al 100%. Una volta sono sicuro che è lui, allora gli avrò giornalizzato il campanello, non ti preoccupare, un gancello, l'abrini, con un gruppo di strada, ma non lo posso aprire un gancello. Sei quello che... più o meno capito, io l'arrivo a fondo scala, come minimo. Cazzo Tony, ma cioè tu fai uno più uno, ok, Tonino Kawasaki abita X, ok, nella parte bassa del monte è fortissima la portante, dalla Teroce non è, perché non è, dalla zona di Giulio non è, dalla zona di Massimiliano non è, alla Teroce non vi ne CB, c'è Luca Flipper, Luca Manicomio quando parla da casa della ragazza, poi chi c'è? Torre Squalo, la Monera Marchisio che non c'è più, e Gio Maria Ghi. Cioè, non li devi cercare quelle persone, Tony. Nella parte nostra il segnale è 9.20 a me, 9.20 a Roberto e 9.20 a Antonello Alessio. Come da manuale, adesso tu fai uno più uno e dammi il risultato. Vabbè. Detto, se quella persona me ne arriva a fondo scala, non ce n'è, perché mi copre tutti, ma tutti veramente. Qua Gianni mi arriva forte, mi. Ma Gianni lo copre. Ma è chiaro, ma con 3 antenne diverse, con 3 antenne diverse, infatti non passa nessuno, perché nella zona bassa del monte non sentono a me, neanche con 100 watt. Addirittura. Ma allora c'è qualcosa sotto? Ma facciamo i giochi, la macchina che porta in campo va, e boh, secondo me, non è il caso di stare ogni sera a rompere le scatole, farlo una volta, 2 volte, accettiamo anche la terza, ma basta, adesso ha stufato, siccome qualcuno molto professionalmente e con apparecchiature molto sofisticate ha già detto che è lì, e allora noi lì stiamo puntando, non si sbaglia, perché solo da lì può essere, capito Tony? E basta, c'è fine in nera. L'usore dice che secca la viga, no? Non ti dico cosa è già siccato due a noi. Avanti, muro, se no. Ok, noi stiamo parlando al telefono. Sì, ieri l'avevo messo anche a me la portante. E presumo che mi hanno coperto. Confermi, Claudio. Ti copre. Non passa nessuno qua. È 9.20. E 9, poi quando mette quel cacchio di cicalino aumenta ancora di più l'audio e quindi non sento niente, assolutamente, sento solo i miei vicini, oppure Gianni Doppio quando, ma perché uno deve modulare con 300 watt, perché c'è questo cretino, qualcosa bisogna fare, come dice Claudio, prendere provvedimenti, e se lui cade nella rete, stai pur certo che i provvedimenti sono già presi, non ce n'è problema, perché bisogna, per poter fare una cosa, bisogna essere certi, non è che puoi fare stronzate, bisogna essere certi, se uno è certo stai pur tranquillo che qualcosa la facciamo, avanti Giulio fai girare, c'è anche Massimiliano mi pare. Sì, Massimiliano si era assentato. Ciao Tonino, sì, in effetti è così, però avete notato che da quando abbiamo dato istruzioni a Bruno, anche se non ne aveva bisogno lui di istruzioni, non l'ha messo più la portante, la metteva solo quando parlava Bruno, perché sapeva che in quel momento Bruno non poteva controllare. Te la immagini che è andata di vigliacco di persona, non è possibile, comunque. Vabbè dai, avanti Gianni. Ehi, hai attaccato l'altro microfono, meglio va a Torino questo qua. Ma ti sento sempre bene, anche lei era buono, questo è leggermente un po' più alto, però è ultimo la radio già. si incollasca. Sul microfono, comunque non mi fate sangue cattivo, dai. Io lo stesso ero così, non sotto, ma apri posso io calzarmi una portante, se non mi alluci. Sì, perché la fine poi dice, ma chi non può fare? Cioè, lo so, dispiace, rompo le palle, che se parlano con un amico, così o quello che vuoi, e uno si intromette, rompo le scatole, io stesso sono un posto tranquillo, zacco portante, portante, portante, e se non mi alluci. Vabbè, e che ci vuoi fare? Vabbè, avanti qua. Ciao Bartolico, SL. No, ma non è un problema di... guarda, io le due sere che chiudo, qua c'è Giulio. Ieri abbiamo chiuso, ha chiuso Giulio, ho chiuso io, ma ne sono andato perché non voglio fare polemiche. Però basta, cioè te l'hanno già detto che sei già nel... lì, nel... qui, qua, qua, sei già arrivato e ancora continui. Adesso stasera è capitato che c'è Bruno Ragano su in quella zona, ho detto fermati lì, capito? Poi lui non sa però che ce n'è un altro con un'altra radio più avanti di Bruno. Quindi se lui mette la portante e mi confermano, sottolineo, mi confermano che la portante arriva lì senza il PL, lui è morto, perché lo distruggo, capito? Per dimostrarle che certe cose non si fanno, le abbiamo fatte da ragazzini, adesso non si fanno più, anche perché siamo quattro gatti, quindi non penso che convenga metterci la portante tra di noi. Si chiacchiera, si dicono delle fesserie, si parla un po' di tutto, ma cosa, perché devi disturbare? Non va bene. Vediamo col vostro permesso se è rientrato Massimiliano, se no riprendi Claudio Ramuros a girare e poi manda per Giulio, Claudio. Massimiliano, ci sei? No, vai Cla, poi vai per Giulio. Ok Cla. Sì, beh certo, ma è così, è così. Ma poi io dico questo, ma quando vai a città? Cioè, ha parlato tantissime volte questa persona con noi, perché non continuerà a parlare senza bisogno di fare lo stupido così schiacciando la portante? No, non è possibile. Ma adesso non è che l'abbiamo anche trattato bene, se consideriamo che noi supponiamo chi è, però abbiamo sempre trattato bene tutti, per cui non è vero la ragione per quale motivo dovrebbe fare questi dispetti così cretini. Ma no, comunque vediamo a Bruno. Bruno, va bene, ok giù, no, io sento bene molto a Tunino, mi sono molto forte qua, e vabbè, non so dove sono io adesso, ma c'è una cosa di strano, io sono un accorso migliore, è arrivata una notte, mi ha puntato in sale, ha fatto una trovata e se ne è andato, come se stessero cercando dove ero, qualcuno che si è messo in macchina per vedere il sole, mi ha portato. Guarda che macchina è Bruno, guarda che macchina è. Guarda che macchina è, dillo a Gianni Doppio se c'è il suo numero, non lo dire qua. Giulio. Sì, avanti. Fortunato, buonasera, stavate parlando, detto, a me ne entrare per salutare. Ciao Fortunato, sempre in gamba sei tu, che ti onori della tua, del tuo saluto, sei sempre stato un amico, lo sarai sempre, suppongo. Va bene, ti faccio venire avanti Claudio e poi gli altri, così si salutano anche loro, Fortuna. Ben ascoltato da parte mia, avanti qua. Specifica sempre Claudio Spagliero, Claudio Di Muros. Ciao Fortuna, buonasera, ben ascoltato. E cordialità, ti passo Tonino Kawasaki per i saluti. Bruno, guarda che macchina è se ci riesci, e non lo dire in radio, chiama Gianni Doppio Rum al telefono e dillo a lui. Avanti Tonino. Sono fortunato, ho ben sentito per la prima, arrivo un po' bassa, scusate, cioè i cani che fanno casino, gana. E riferendomi anche a Claudio Di Muros, Giulio, cioè ce l'ha con tutti, perché giustamente non faccio male a nessuno, entro poco, quel poco che entro, buon abbordante, se non mi alluci, tutto qua. Gianni, Doppio Rum, riprendi. Vabbè, gli diamo solo soddisfazione se ne parliamo, vuole sgamate e una volta che si sgama si mettono le firme e si rinuncia, molto ci vuole. E si conferma, ma infatti dobbiamo essere certi di quello che stiamo facendo. Adesso Bruno oggi ci sta dando una grande mano, hai visto? Che è sceso lui e nel viotto su, già mi hai capito già, no? Dove abita il nostro carissimo amico sopra in alto. E praticamente è scesa la macchina a controllare se effettivamente c'era qualcuno ed è tornata indietro, hai visto? Quindi non stiamo parlando, Claudio Di Muros, più di roba piccola, stiamo parlando di persona fisica grande. Breco. Fatto il giro, guarda, ho dato la lato, ed è entrato in un'altra casa, poi tutto va da fare la gente che va ripassata. Breco. Avanti. Scusate, intanto saluto tutti quanti, è un po' di giorni che sento questa portante, ma secondo voi chi è? Fate nomi e cognomi, perché non mi piace, così entro giusto per dirlo, che si facciano allusioni, perché uno dice chi è, non che si fa capire determinate persone che io, per quello che ho capito io, sono sicuro che non è, giusto la mia volevo dire. Rispondo io, Fabrizio, ma secondo te noi dopo 40 anni in radio siamo stupidi? Siamo stupidi secondo te? Nessuno ha fatto nome e nome non lo possiamo fare se si è attento, perché non siamo sicuri, ma la zona è su in alto, nella zona di Monte Alto, ok? Ah, se pensi che sia quella persona che stai dicendo, io faccio nome e cognomi, che sia Riccardino, io sono sicuro che Riccardino non è, capito? Quindi è inutile che si fanno allusioni, di questo ne sono sicuro, io faccio nome e cognomi, non ne ho problemi, giusto per capirci, io faccio nomi e cognomi, perché non è lui e non voglio che si facciano allusioni, perché chi è ci vuole poco a scoprirlo, ma non è lui e te lo posso garantire, quindi non ci bisogna fare nemmeno allusioni su quella persona lì, così sono entrato giusto perché lo voglio chiarire. Ma perché ti stai beccando? Facci capire, perché sei entrato a fare il padre, il prete, perché non fammi capire, cioè quali sono queste tue illusioni, chi è che sta ludendo? Se io scopro una zona e ti dico che è lì, non sono imbecille, come me altre 10 persone, capito? Perché c'è Bruno Ragano lì e arriva a fondo scala, quindi di cosa stai parlando? Scusa, non ti sto capendo, Cla, per un motivo, forse ho problemi con la mia radio e arrivi tutto distorto, probabilmente la mia radio, puoi abbassare leggermente il mitigain, che così segui il discorso. Ciao Bru, vediamo un po' se mi senti, lei mi capisci adesso? Perfettamente, poco fa forse sono io, siamo troppo vicini, ma proprio non riuscivo ad ascoltarti, vai. Ti ho detto, Fabri, che non io e quelli che siamo qua, ma qualcuno ha già stabilito che la portante è al Monte Alto. Quando noi facciamo i calcoli, tanto nessuno ha detto che Riccardino, nessuno ha fatto nome, ok, poi le allusioni le facciamo tutti, no? Capito? Io ti ho solo fatto una domanda, come mai sei entrato a dire questo? Che nessuno ha fatto, intanto nessuno ha fatto il nome, le allusioni le possiamo fare tutti, perché io posso alludere che la portante è da via Don Mizzoni, ma in via Don Mizzoni non c'è solo Fabrizio, ci può essere anche Giovannino, non c'entra niente questo, è per esclusione che stiamo andando, capito? Siccome ci hanno detto e hanno riscontrato che la portante è nel Monte Alto, nella zona alta, praticamente per farti capire, nella zona prima di Marco, e quindi cosa dobbiamo fare noi? Chi c'è lì? A me non interessa chi c'è e non c'è, io posso garantire, perché ci ho parlato e so perfettamente, posso garantire che non è lui che sta mettendo portanti, quindi se qualcuno ci ha fatto una mezza idea, io la voglio smentire qua apertamente davanti a tutti, la voglio smentire, perché può essere chiunque, ma di certo non è lui che sta mettendo portante, capito? Perché sta facendo tutt'altra cosa in questo periodo e non sta nemmeno accendendo, perché non può accendere, quindi non è lui assolutamente. Su questo lo posso garantire, quindi se ci dice che uno al monte sono d'accordo, può essere chiunque, posso essere da via di Minzoni, posso essere io, ci sta pure, però io posso metterci la mano sul fuoco che non è lui, quindi quando si dice sul monte, l'importante è che non si alluda, perché sono sicuro che non è, e mi piace dire le cose come penso, ve lo dico subito, non è che sto lì a girarci intorno, mi piace dirlo, perché mi dà fastidio già che che questo ragazzino sia stato escluso, uno dei pochi che era amante della radio, dico il mio suogo e dico quello che penso, uno dei pochi che era amante della radio, un ragazzino che stava entrando nella radio, l'unico forse in questa provincia, e io pensavo che un domani potesse proseguire per poi prendere la patente, proseguire e avere un rinnovo generazionale, che non c'è più un rinnovo, e invece lo state facendo fuori. Questo è il mio pensiero, e non solo non sta più accendendo il barattino, si allude anche che sia lui che metta portante, così. Intanto ti rettifico una cosa, che si è fatto fuori da solo, nessuno l'ha mandato via, Fabri, quindi inutile che entri a fare la paternale alla gente, ok? Su questo non ci piove, si è fatto da solo, si è fatto male da solo, se avesse tenuto più chiusa la bocca e avesse fatto veramente, usato la passione della radio, forse non sarebbe successo questo, ok? Non sono solo io a dirlo, ma anche altre persone che sono qua, quindi non ti dico altro. Comunque nessuno ha fatto nomi e cognomi, tu sei entrato per protezione, sei entrato per dire che ci metti la mano sul fuoco e ci stai facendo capire che sai che non è lui, perfetto, nessuno ha detto che è lui. L'importante è nella zona del Monte Alto, a 50 metri da dove abita Marco, quindi CB lì non ce ne sono. Se qualcuno allude, come me, come tante altre, già, altre persone, l'allusione è una cosa, la realtà è un'altra, ok? Quindi non c'è bisogno di fare tante polemiche, punto. Io la faccio la polemica come quando voglio, se permetti, no, giusto per dirlo, perché c'è modo e modo di dire le cose, perché quando si dice è una portante lì, ma ogni volta è già la terza, quarta volta che si fa capire benissimo che può essere questo ragazzo qua che mette portante. E ricordiamoci che c'ha 13 anni, non è un uomo come me che ne ho 52 e tu ne hai una decina in più di me, è un bambino di 13 anni e come tale va trattato e va considerato anche per le azioni che può aver fatto, giusto o sbagliato. Non entro in merito se può aver sbagliato o aver fatto le cose giuste, anche perché io in radio non ci sto quanto voi, quindi siete molto più bravi a giudicare, però rimane sempre un ragazzino di 13 anni che per te potrebbe essere tuo nipote, per me potrebbe essere, forse sì, io ho figli dell'età di Riccardino, per me potrebbe essere un figlio, ma anche quasi un nipote, perché io ho fatto figli da grandi, e per la maggior parte di qua potrebbe essere un nipote, se non un pronipote. Ecco perché non bisogna prendere molto sul serio e prendersela come se io ti faccio un torto, è ovvio che con me te la puoi prendere perché ho 52 anni, sono un uomo, ma con un ragazzino non c'è bisogno di prendersi e di accanirsi in quella maniera, come qualcuno si è accanito, come che se pensi che abbia fatto, anche se ha fatto qualcosa che non è così perfetto, posso anche capire, ma non lo giudico perché io non sono in radio per sapere cosa ha combinato. Comunque ha combinato un ragazzino di 13 anni e non una persona matura dove va catalogata, anche va preso, tirato per orecchie e ridimensionato se ha fatto qualche errore, ma continuate a chiamarlo e farlo giocare. Io, è il mio punto di vista, magari mi sbaglio, sarà che ho figli di 12 anni e uno di 17, quindi mi immedesimo nella figura del padre, giusto per capirsi, del padre voglio dire, non il suo padre, io mi immedesimo come che fosse mio figlio. Ascolta Fabri, e qua chiudiamo i discorsi, non ha assolutamente fatto niente in radio che possa aver danneggiato nessuno di noi, ok? L'ha fatto al di fuori della radio, va bene? Quindi se tu sei un suo amico e sei una persona che veramente ci tieni, come stai facendo capire a tutti noi, allora intervieni. Probabilmente riflettendo e capendo ciò che ha fatto, può tranquillamente entrare in radio. A me non mi interessa, a me non mi ha fatto cose particolari, ha solo sparlato di me e basta, cosa che io manco lo conosco, l'ho visto una volta in officina da Roberto Quadrato, non so dove abita, quindi non mi posso permettere di dire che so solo la zona dove abita, ma non so assolutamente dove abita, perché non l'ho mai frequentato e mai sono andato a casa sua e lui mai è venuto a casa mia, punto. E qua chiudiamo il discorso. Comunque l'importante è stato stabilito come i vecchi vecchi tempi, siccome io ho più di 60 anni, ne ho combinato forse peggio di qualsiasi altro che oggi è in frequenza da ragazzino, perciò so come si cerca, non è importante come si fa, capito? Perciò non sono stato io a dire che è in quella zona, è stato riferito da persone un po' più grandi anche di me, capito? Quindi tu sei entrato per difendere Riccardino e per non alludere che sia Riccardino. Benissimo, noi stiamo nelle nostre, stiamo tutti in generale. Al momento in cui qualcuno di noi veramente sa per certo che la portante arriva da lì, poi le responsabilità te le prenderai tu. Sì, certo, mi mettono le manette ma restano le responsabilità, certo le responsabilità. Io sono sicuro che non è lui. Tu ancora continui ad alludere, quando scopriremo, ma cosa dovete scoprire qua? Noi siamo cose, io ci ho parlato un po' anche con altre persone, non è vero niente che ce l'hanno con questo ragazzino, non è vero niente che tutti, qualcuno forse, ma non bisogna fomentare, non bisogna stare lì a continuare a cercare di fare, stiamo parlando di un bambino di 13 anni, te ne rendi conto? È una parola grande dire che è un mio amico, è una parola grande, amici sono persone di 40 anni, possono essere miei amici. Riccardino è come può essere un figlio, cioè un figlio nel senso che se viene un amico di mio figlio non può essere un mio amico, e magari ci tengo, ma un rapporto diverso si crea, capito? Un rapporto diverso, e forse chi sta ascoltando capisce, perché tutti abbiamo figli qua, cosa intendo dire, capito? Comunque se qualcuno ha qualcosa da dire o la sua idea, può entrare tranquillamente, non è un ping pong questo qui. Adesso non mi ricordo, ho sentito qualcuno che c'era in radio, adesso oltre che me Claudio c'è qualcun altro che vuole entrare, avanti. Certo, vorrei entrare io, buonasera. Ah, Bombolo, no, Bombolo sì, no. Sì, sono Bombolo, sono. Ah, ben sentito, Bombolo, avanti. Voglio dire la mia. E comunque, chiunque è stato, o che sia ragazzino, che sia no, io non so veramente dove c'è questa portante. Io so la stessa cosa che sappiamo tutti, però certe cose non si fanno, ci può parlare, cioè tranquillamente ci può parlare e vedere dove sta lo sbaglio, tutto lì il discorso. Bravo, se è successo qualcosa, a prescindere dalla portante, che ti ripeto, mi è già la troppe volte sento allusioni di quello, è da lì la portante, ok, ma non è detto che la mette lui, primo, quello che ha detto Bombola perfettamente ero giorno. Se ci sono stati qualche problemi, si chiariscono tra persone grandi, mature, immaginate se c'è bisogno di chiarire con un bambino stiamo parlando, perché ha 13 anni, un bambino, ecco perché le cose bisogna, c'è più che da chiarire bisogna discuterne, perché io posso incavolarmi con una persona grande, ma un bambino mi incavo, di 13 anni. Capito cosa ti voglio dire? Avanti, Bombo. Sì, però ti dico pure una cosa, però mettiamo il caso, adesso facciamo un'ipotesi, che fosse lui, io te lo dico, se io scopro che è lui, sono il campanello, vado dal padre e glielo dico, perché questo è il mio dovere. Questo è il mio dovere di fare, cioè io te lo dico in faccia, vado e dico passa così così, e poi se vuole ne parliamo anche con lui, dico non lo fare più e basta, se è veramente così, perché è giusto. Bravo, sto facendo un discorso giustissimo, stai facendo un discorso da persona matura, non ti vedo nemmeno incavolato molto, ma per una persona matura no, se io vedo che un bambino fa una cosa, busso dal padre e dico guarda il tuo figlio così così così, perfettamente, quello è un discorso giusto, ma non ti incavoli per una cosa del genere, comunque tranquillo che se hai fatto troppe allusioni, tranquillo che sono sicurissimo che non è lui che sta mettendo portante, capito? Sono sicuro di questo, quindi voglio dire, rimango della mia convinzione, siccome lì ci sono fatto, capito, delle verifiche e pare che la portante venga da lì, si è automaticamente detto è lui, capito? E lui si presuppone anche tu adesso come stai parlando, e ho capito tu il discorso, è il discorso più logico che stai facendo, ma se non ti do nemmeno così, che giustamente se scopro che lui giustamente bussa alla porta dal padre e glielo dico, e mica vado ad adirarmi con lui che è un bambino di 13 anni, hai perfettamente ragione, però io credo che non sia lui, ecco perché, certo che sarei io il primo ad andare lì, se lui a dirgli ma non vuole parlare col padre, ci mancherebbe altro, a fare la stessa identica cosa, credo, però io ho più convinzione perché so quando ha messo la portante dove era lui, quando ha messo che lui stava anche seguendo l'altro giorno la portante, io l'ho chiamato, capito? E non era nemmeno a casa, era da tutt'altra parte, per dirti, capito? Perché gli sono sicuro che non è lui, giusto per capirci, no? Perché l'altro giorno si stava portando, uno che saliva e l'altro che facevano le prove, da lì a lì a lì, ho detto, cazzo, ma è possibile che sia così? Tanto ho preso il telefono, perché adesso chiamo anche il padre, voglio capire, e ho chiamato a lui, cioè, e non era lì, non era lì, era fuori, non era a casa, capito? Perché dico che non è lui che mette portante, giusto per capirlo, no? Ecco perché sono intervenuto, Momolo, per questo motivo qua, perché era lui una persona che non era lui, non è possibile, o è il dono dell'ambiguità, che una è lì e là, ma non credo proprio, capito? Ho chiamato, poi ho passato il padre e so dove erano. Ok, avanti, Momolo. Aspetta un secondo, vabbè, ma guarda che nessuno ha detto che c'è certezza che fosse in allusione, come tu dici, si va e si prende a schiaffi, è chiaro che si parla col suo genitore, no? Non è che si va a prendere a schiaffi un bambino di 13 anni, capito? E poi ti ho detto, ti assumo le tue responsabilità di quello che hai detto, non di certo perché ti debbano mettere le manette, capito? Ognuno si assume le proprie responsabilità, tu sei certo che è così? Io sono solidale, non ne ho problemi, figurati, non mi incazzo io, tanto è vero che ieri ho spento, me ne sono andato, avanti ieri ho spento, me ne sono andato, oggi ho detto no, adesso rimango perché c'era Bruno, c'è Bruno Ragano, è andato via adesso ed era proprio lì nella piazzola e stavamo cercando di capire se quando mettevo la portante staccando il PL il segnale entrava lo stesso, se entra il segnale automaticamente 20-30 metri insomma di distanza, è chiaro che è così, tutto qua. Tu alludi che sia così, dici che è così, io sono perfettamente d'accordo con te, nel modo più assoluto, però sappi che nessuno ha fatto nomi, abbiamo solo detto che la portante è dal monte alto, la punta più alta del monte, dove c'è la scuola, capiti? Quindi vicino a Marco, ok? Perciò facendo uno più uno, tutti abbiamo constatato, controllando e facendo che non ci sono altri CB, può darsi pure che sia l'Uderva che fosse lui, ma nessuno ha sollevato polveroni e Fabrizio, stai sereno e tranquillo. No, io sto sereno, non ti preoccupare. Ah, te lo sto dicendo perché l'altro giorno, quando qualche giorno fa è successo di questa portante che si stava parlando, che uno provava, eccetera, poi ci vuole poco. Dalle varie zone riesci a capire, se c'ero io poi nemmeno ho fatto la prova, perché se no ieri un po' metti un attimino, rifatti un'attivazione, metto con l'analizzatore di spettro e inizia a girare con la direttiva e bene o male lo capisco dove sta arrivando il segnale. Il problema era un altro, che ho voluto constatare, quindi nel momento che io sentivo che tutti dicevano, cazzo, ma è possibile, perché troppe volte ho telefonato, quando io ho telefonato ho sentito prima lui ed era col padre in macchina, capito? E non era lì, era da tutt'altra parte, ho detto, ma c'è a casa, no, perché sono così, quindi ho capito che quando tutti si stavano, non a quella parte della zona, e lì al monte, e lì, budubum, che comunque, giustamente, c'è quel CCB, o è Marco, l'amico mio, sarà Marco che mette portante, oppure ho chiamato e non c'era, ecco perché ti dico per l'altro giorno che tutti erano convinti che era lì la portante e lui non era a casa, ecco perché ti dico questa cosa qua, giusto per chiarirla, no, giusto per chiarire, e per oggi l'ho risentito e sono voluto entrare perché ho capito la tua esperienza, la vostra esperienza e io vi sto dicendo quello che ho constatato io, poi ognuno si fa uno più uno fa due, 2 più 2 fa 4, poi ognuno si fa così i conti e pensa se può essere, non può essere, si fa delle idee. Era giusto per dare la mia esperienza, per avere più dati, per poi farsi un'idea proprio ognuno. Così, giusto per dire, no? Sì, ma non fa una piega il tuo discorso, non fa una piega. Ma ti ripeto e ribadisco che qua non è stato sollevato nessun polverone nei confronti suoi, nel modo più assoluto. Ci sono delle allusioni, come hai detto tu, e stiamo cercando di capire perché è lì, a meno che non sia nato qualcuno lì, proprio lì, dietro Marco, dietro quella zona, da qualche parte lì, intanto che ci stia disturbando, perché è impossibile, cioè da qua, da casa mia, io, Roberto e Antonello, non passiamo al latte dolce, capito? Nella zona del monte non ci sente nessuno, quindi è una cosa assurda questa, e ti dico che con tutta la mia esperienza da CB non ho mai assistito e visto vista una cosa del genere, perché è impossibile. E quindi stiamo cercando di lavorarci. Ma se tu hai già constatato che è così, io sono tranquillissimo, più tranquillo di me non c'è. Allora deve finire, chiunque sia e sta ascoltando la deve finire, perché intanto prima o poi lo pisichiamo. Se è grande avrà a che fare con i grandi, se è un bambino avrà a che fare con i bambini, ok? Quindi la chiudo qua, a me non interessa. Io, guarda, non ho nessun problema, se posso parlare parlo, se non posso parlare sto in silenzio. Non vivo di radio, vivo solo di alla giornata e boh, capito? Tutto qua. Sì, io ho capito, era giusto, tu lo sai perfettamente che quando io ho una cosa la dico in faccia a tutti, nel bene e nel male, ci è capitato più di una volta anche con te di aver avuto dei chiarimenti, quindi io lo so benissimo che non vado a raccontare alle spalle, se una cosa la penso la dico in faccia e non ho problemi, chiunque mi conosce lo sa, sono una persona abbastanza trasparente, sono sempre stato disponibile con tutti, sono sempre disponibile, tutto, se una cosa la penso la dico in faccia, tu lo sai benissimo, quindi in questo caso mi sembrava per il mio carattere giusto entrare e dire la mia esperienza di quello che è capitato a me quando tutti quanti stavano provando, facendo, allora te e io ho fatto questa, e quindi questo a me quel giorno è questo quello che io ho constatato, siccome poi ci ho anche parlato, ecco, è stato proprio detto, no, guarda, no, l'ho sentito, eccetera, eccetera, mi hanno riferito anche a me, padre, eccetera, eccetera, io dopo sto dicendo la mia, però mi piace dirlo in faccia, senza che nessuno se la possa prendere, senza che nessuno possa pensare a chiunque, chi mi conosce sa perfettamente che questo è il mio modo di fare, quello che penso lo dico, nel bene e nel male, molte volte mi penalizza perché diventerò antipatico a qualcheduno, ma comunque è difficile che qualcuno ti possa dire Fabrizio ha detto di te questo, no, tranquillo che già te lo dico in faccia se devo dire qualcosa, e tu lo sai benissimo come sono fatto. Ma tu sai benissimo come sono fatto io, come sai, nel poco tempo che ci siamo conosciuti e frequentati io sono molto schietto, sia in radio che di persona, non ho paura di nessuno, non ho paura di affrontare chiunque mi possa mettere il muso davanti, l'importante è che si discute, è quello che piace a me. Quando invece mi parlano alle spalle mi si girano molto le balle, questo lo sanno tutti. Io se ti devo dire una cosa te la dico anche in radio, non ho problemi, e te la dico anche di persona perché ti affronto, vengo, ti cerco e te lo dico, quindi mi conosci molto bene, perciò io voglio solo capire il perché che sia uno, che sia l'altro, che sia Tizio, Caio, Sempronio continua ogni sera imperterrito a disturbare nel canale 10. Questa è la nostra domanda, ancora non abbiamo risposte, qualcuno la risposta se l'ha data, io personalmente me la son data per i fatti miei, però dico ma non può essere, perché anch'io ho detto non può essere, ma a questo punto c'è un può essere, e quindi siamo arrivati a un dunque, tu hai constatato, ma nessuno ti può dire il contrario perché non ti posso smentire nel modo più assoluto, hai constatato che il giorno che c'è la portante oggi è sempre la stessa, perché il segnale è quello, hai constatato che lui non era a casa sua, per me il discorso è chiuso qua, va benissimo, però attenzione, perché se la portante è in quella zona e riusciamo a capire chi è, lui ha finito di vivere. Ripeto, ribadisco, se è piccolino si cerca di far capire che certe cose non si fanno, se è grande avrà a che fare con me e con tante altre persone come me, su questo non ci piove. Sì, su questo sono perfettamente d'accordo, allora sono perfettamente d'accordo, è così. Alla domanda tua ti rispondo subito, non ho capito il motivo, te lo dico io, perché la mamma degli imbecilli è sempre incinta, no? L'imbecille di turno lo trovi sempre, non è che ci vuole molto, è sempre incinta, ricordati, è sempre incinta, degli imbecilli è sempre incinta la mamma, e ne troverai dovunque, perché non si sa, dice ma perché fai così, perché è così, perché guasto, non ci puoi fare niente, purtroppo l'umanità è fatta così, c'è gente che si diverte a raccontare balle, a fare cose, a farsi grande, a dire quello, a dire cazzate, mi hanno detto, mi hanno fatto, a mettere portanti, ti trovo in giro a parlare male di uno, dell'altro, parlo nella vita in generale, anche quello, al lavoro uno ti dice una cosa, ti dice dietro le spalle perché è geloso, perché tu c'hai il dito più lungo, perché sei più alto, perché hai fatto un premio in più dell'altro, e solite cose, è l'umanità così, è per questo motivo, quindi chi lo sta facendo, che poi tu pensi che sia lui, o per dirti no, è un imbecille, punto e basta, non c'è motivazione, non c'è nessun motivo, è imbecille. Secondo me Fabrizio mette la portante, comunque vabbè, io non voglio fare i nomi, secondo me è Fabrizio. Eia, ti volevo dire una cosa, ti volevo dire che comunque io sapendo una cosa del genere, mi rancora un po', perché cavolo dico, ma porca miseria, so che non è lui, allora, sono contento, dai, mi rancora se non è lui, capito? No, tranquillo, io credo proverò, perché l'altra volta che lo stesso stava facendo prove, erano convinti che veniva da lì, lui non era a casa, quindi, e gli altri giorni